Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La BCE chiede all'Italia un nuovo consolidamento dei conti. A rischio il target del deficit. La crescita europea, secondo Francoforte, perderà ulteriormente slancio. Bene l'asta dei BTP a 3 anni, nuovo minimo storico per i rendimenti. In vista anche tagli sulla sanità, il presidente delle regioni Chiamparino contro l'esecutivo. Se avviene, il governo rompe un patto d'onore. Obama prepara l'attacco all'ISIS al confine tra Iraq e Siria. Li distruggeremo, dice il presidente, ma non ci saranno truppe di terra. Era in fuga da Ferragosto. L'orsa Danica è stata uccisa nel tentativo di cattura, forse a causa del troppo anestetico utilizzato. La forestale apre un'indagine. Il ministro chiede chiarimenti alla regione. Eni, la procura di Milano indaga il neo amministratore delegato De Scalzi per una presunta tangente in Nigeria. Nessun illecito, collaboriamo coi PM, dice l'azienda. Verso il verdetto per l'ex campione paralimpico Oscar Pistorius, accusato di aver ucciso la fidanzata. Secondo il giudice non si può provare la premeditazione. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre, per scriverci, effettogiorno@radio24.it, per quello che volete, insomma, anche per le critiche naturalmente. Durante la trasmissione il 349-238-6666, ossia gli SMS. Iniziamo dunque dal bollettino della Banca Centrale Europea, che sembra indicare, almeno all'apparenza per l'Italia, la necessità di una nuova manovra. A rischio l'obiettivo del governo italiano sui conti pubblici per il 2014, lo scrive oggi la Banca Centrale Europea nel suo bollettino mensile. Secondo la BCE, il pericolo del mancato raggiungimento del target, un deficit pari al 2,6% del prodotto interno lordo, deriva dall'evoluzione negativa dell'economia che sta andando peggio del previsto. La BCE sollecita quindi il governo a rafforzare ulteriormente la politica di bilancio. Il tema della politica fiscale è stato recentemente al centro del dibattito europeo, con Italia e Francia che ha appena annunciato che rinvierà la riduzione del deficit al 3% al 2017, che premono per un allentamento dell'austerità, e la Germania sul fronte opposto. Sulla questione è intervenuto di recente anche il presidente della BCE, Mario Draghi, sostenendo che pur nel rispetto delle regole attuali possono essere utilizzati tutti i margini di flessibilità esistenti. Draghi parlerà stasera a un convegno a Milano e ci si aspetta anche che spieghi le misure adottate la settimana scorsa dalla BCE per il rilancio del credito nel tentativo di far ripartire la crescita stagnante dell'Eurozona. Il tema dell'austerità fiscale, insieme a proposte per il rilancio degli investimenti nell'area euro, verrà discusso domani e dopo qui a Milano alle riunioni dell'Eurogruppo e dell'Ecofin sotto la presidenza italiana. Alessandro Merli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Milano. E questa mattina c'è stata una nuova asta di BTP, BTP a 3 anni, i rendimenti sono nuovamente in calo ad un minimo storico, lo 0,52% contro lo 0,84% precedente, e anche la domanda è risultata in rialzo. Anche con quello che dice la BCE oggi si deve confrontare l'esecutivo, che prepara la legge di stabilità. Si continua a parlare di tagli alla spesa, in particolare l'attenzione si concentra in queste ore sulla sanità. Ci sarebbe stato uno scontro tra Beatrice Lorenzin e il Presidente del Consiglio, mentre ci sono di questa mattina le parole durissime del Presidente della Conferenza delle Regioni, Sergio Chiamparino. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Vincenzo, ci siamo? Eccomi Simone. Eccoci qua. Allora, si diceva delle parole dure di Chiamparino e anche dello scontro che ci sarebbe stato in Consiglio dei Ministri tra Beatrice Lorenzin e Matteo Renzi. Prego. Assolutamente, così è comunque una frenata, almeno rispetto agli annunci, quella di Palazzo Chigi sui tempi di intervento sulla spending review. I colloqui tra il Premier e i singoli ministri, che dovevano iniziare ieri, sono stati infatti sostituiti dalla richiesta del Presidente del Consiglio di fargli pervenire delle note con i possibili interventi per ciascun dicastero. Resta fisso l'obiettivo di un taglio medio per ogni ministero del 3%. Non è questo tuttavia un obiettivo rigido, così come i tagli non saranno lineari. Il totale dovrà portare comunque ai 20 miliardi previsti. Tra i ministeri tuttavia è impredicato di dover stringere maggiormente la cinghia famiglia, vi sono sanità e difesa. Per il primo in particolare si starebbe facendo strada l'ipotesi di un intervento sul fondo sanitario per i prossimi 2 anni, ipotesi che non piace al ministro Lorenzin, che spiega siamo in una stagione di riforme per il ministero, poi se c'è necessità reale dello Stato affronteremo eventuali interventi. Più duro il presidente della conferenza delle regioni Chiamparino, che avverte con il governo abbiamo siglato in agosto un patto d'onore sulla sanità, se si rompe viene meno il rapporto di fiducia e collaborazione. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e anche oggi andiamo sull'altro fronte che riguarda il Presidente del Consiglio, soprattutto nel suo ruolo di segretario del Partito Democratico, e l'altro fronte naturalmente è ancora quello dell'Emilia Romagna. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Il PD fa quadrato sul caso Emilia Romagna dopo le dimissioni di Matteo Richetti sotto accusa per peculato, ricordiamo, per mancati scontrini di 5.000 euro. Stefano Bonaccini, l'altro candidato Dem, resiste, indagato per 4.000 euro di pranzi, cene, rimborsi chilometrici in 19 mesi di attività da consigliere. Si tratta dunque di 200 euro al mese. L'avvocato di Bonaccini presenterà in giornata a Bologna istanza per l'archiviazione. Intanto, dopo il no di Romano Prodi, che si dice indisponibile agli incarichi locali o nazionali, e quello di Pierluigi Bersani, che ci ha detto proprio qui a Radio 24 di aver già dato, dal PD spuntano anche i nomi di Graziano Del Rio e di Giuliano Poletti per superare l'impasse. Stamattina arriva comunque la difesa del renziano Paolo Gentiloni. Non c'è nessun obbligo dal punto di vista giuridico di dimettersi dai propri incarichi nel momento in cui si riceve un'informazione di garanzia. Se si teorizzasse questo obbligo, dice Gentiloni, si teorizzerebbe una barbarie. All'attacco Forza Italia per Francesco Paolo Sisto, invece la giustizia vuole comandare sulla politica in barba alla Costituzione. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Votati ieri i 2 nuovi membri del CSM, il Parlamento si appresta a votare quelli per la Corte Costituzionale. Sentiamo. Nuovo giro, nuova corsa. Nona per la Consulta, sesta per il CSM. Scelti ieri notte solo 2 dei 10 nomi, il Parlamento ricomincia da dove si era fermato, con l'urna aperta nell'aula di Montecitorio e le trattative serrate tra gli spalti. Dietro la sfilza di fumate nere, i veti tra partiti, quelli interni alle singole formazioni, quelli sui singoli nomi e gli equilibri, ora di nuovo tesi tra magistratura e politica. Si è ripartiti stamattina dall'effetto delle nomine di ieri per il CSM. Giuseppe Fanfani, Giovanni Legnini, designato alla vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, con non pochi mugugni delle toghe, anche se resta in carica pure il più renziano sindaco di Arezzo. L'accordo sull'attuale sottosegretario all'economia, al posto di Massimo Brutti, storico referente giustizia di DS, rafforza la corsa di Luciano Violante alla Consulta. L'accoppiata dei due infatti non era gradita a Forza Italia, al cui interno è in atto una guerriglia che ha bruciato per ora Catricalà, innescata soprattutto dalle truppe campane. Nel frattempo, al di là del patto del Nazareno, il partito del Premier starebbe provando ad arrivare al quorum dei 3/5, guardando pure ai grillini, il sostegno a Violante in cambio cioè del voto ai loro candidati al CSM. Agli scontri di scuderia si affiancano poi quelli sui singoli candidati dalle origini spesso lontane, e in questo generale do ut des si conferma come quello della giustizia resti un nodo politico centrale anche nell'era del rottamatore. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di lavori parlamentari, sta proseguendo appunto l'esame del Jobs Act e delle questioni che riguardano il lavoro. In Commissione Lavoro al Senato è stato approvato un emendamento di Emanuela Munerato della Lega che prevede le cosiddette ferie solidali, ossia il collega potrà cedere giorni di riposo in più, eccedenti quelli previsti dal contratto nazionale, al collega madre o padre che abbia un figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute. Ne parleremo più avanti con uno dei firmatari di questo emendamento, cercando di capire anche come si intende prevenire, insomma, come dire, eventuali abusi ed un eventuale mercato di tutto questo. all'estero adesso, innanzitutto con una notizia di poco fa, perché è stato raggiunto l'accordo tra i 28 per la pubblicazione domani del nuovo pacchetto di sanzioni europee alla Russia. A breve è attesa una dichiarazione del Presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy. Il pacchetto di misure è stato formalmente adottato lunedì, ma la pubblicazione tenuta in sospeso. E adesso andiamo negli Stati Uniti. Tonight I want to speak to you about what the United States will do with our friends and allies. La voce che sentite, che naturalmente avrete già riconosciuto, è quella del presidente americano Barack Obama. Colpiremo gli jihadisti dell'ISIS ovunque siano, ha detto il presidente, li distruggeremo, e annuncia che gli Stati Uniti prenderanno la guida di una grande coalizione per fronteggiare questa minaccia. Il discorso di Obama, ve lo ricordiamo, sarà al centro di America 24, in onda nell'ultima parte di Effetto Giorno, ma torneremo a riparlarne anche tra poco, cercando di capire quanto sia effettivamente possibile un'azione militare senza, come dicono gli americani, boots on the ground, ossia struppe di terra sul territorio. Nel frattempo è sempre più drammatico l'assedio di Warshefana, sud-ovest di Tripoli, e siamo in Libia. 4 i morti oggi, con un bilancio complessivo che da domenica arriva a 50 uccisi. Le milizie filo-islamiche, che si sono autonominate Operazione Alba, hanno circondato l'area. Fonti citate dall'agenzia MENA parlano di case distrutte e saccheggiate e fanno appello all'intervento della comunità internazionale. Restiamo all'estero, ma ci spostiamo in Sudafrica, dove è atteso per oggi il verdetto nel processo per Oscar Pistorius, l'ex campione paralimpico accusato di aver ucciso la sua fidanzata. Ci colleghiamo dunque con Pretoria e con Lorenzo Simoncelli. Lorenzo, a che punto siamo? Buongiorno. Sì, buongiorno da Pretoria, dove si è appena conclusa la prima parte dell'udienza che rivelerà se Oscar Pistorius ha ucciso volontariamente o meno Riva Steenkamp la notte di San Valentino del 2013. Subito notizie importanti, perché il giudice Tocodila Masipa, leggendo una parte del suo verdetto, ha appena spiegato come l'accusa non sia stato in grado di dimostrare durante i 6 mesi di processo la volontarietà dell'atto dell'atleta sudafricano, facendo di fatto cadere il primo scenario di condanna per il campione paralimpico, che possiamo dire ufficialmente non sarà condannato per omicidio volontario. Escluso anche l'omicidio per etere intenzionale, dato che Pistorius, ha sostenuto la giudice, non poteva prevedere di uccidere una persona, in questo caso appunto la fidanzata Riva, quando ha esploso i colpi. Di fatto rimane solamente l'opzione di omicidio colposo, apparsa la più probabile fine ad oggi, e le scarse possibilità che Pistorius riesca a farla franca, cioè appunto uscire senza alcuna condanna. Grandissima tensione in aula, con appunto i genitori di Riva presenti uno accanto all'altro, e la famiglia di Pistorius al completo, escluso appunto il padre di Oscar, che non ha mai partecipato di fatto tranne una volta al processo. E durante l'udienza, ancora una volta, sono tornate quelle lacrime che abbiamo visto più volte appunto durante questo lungo processo sul volto di un Pistorius molto teso, molto preoccupato per quella che è appunto la sentenza più importante della sua vita. Grazie dunque a Lorenzo Simoncelli, col quale torneremo a collegarci nel corso della giornata e naturalmente non appena ci sarà il verdetto. Per chiudere la pagina di esteri, il referendum per la secessione della Scozia. Si fanno in queste ore i conti di un'eventuale vittoria dei sì. Arriva anche la notizia che il Royal Bank of Scotland è pronta a trasferire la sua sede a Londra, o presumibilmente in Inghilterra, in caso di secessione. Gli ultimi sondaggi danno un sostanziale pareggio tra i due fronti, ma se vince il sì, i capitoli da rivedere saranno diversi: moneta, debito pubblico, giacimenti petroliferi, solo per citarne alcuni. Gli scozzesi vogliono tenersi la sterlina, ma da Londra la Banca d'Inghilterra ha già risposto di no, l'ipotesi è impraticabile, e Royal Bank of Scotland, la maggiore banca e istituzione finanziaria scozzese, ha comunicato questa mattina che in caso di secessione la sede verrà trasferita in Inghilterra. D'altronde, dopo il dissesto finanziario del 2008, il governo inglese è diventato l'azionista di maggioranza. Tra l'altro, secondo il Financial Times, alcune società finanziarie e gestori di asset hanno già ricevuto dai loro clienti la richiesta di spostare fuori dalla Scozia centinaia di milioni di sterline. Gli investitori, infatti, sono spaventati da uno scenario imprevedibile. Timori anche nel settore immobiliare, il cui stallo sembra dovuto al rischio che l'indipendenza possa far salire alle stelle i mutui casa. Il debito pubblico, poi, ma anche su questo gli economisti non sono tutti d'accordo, si dovrebbe dividere in base alla popolazione. Alla Scozia andrebbe dunque solo l'8% dei 1.300 miliardi di sterline che ad oggi pesano sulle casse del Regno Unito. In questa particolare separazione dei beni rientra poi il petrolio. Se si useranno gli stessi principi di pertinenza della pesca, e sì, su questo sono già divisi, agli scozzesi andrebbe il 91% dei proventi. Difficile che da Londra possano rimanere a guardare. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ricercata, per così dire, da Ferragosto, è stata uccisa l'orsa Danica. Un sonnifero che si è rivelato fatale. L'orsa Danica dunque non ce l'ha fatta, non è sopravvissuta e la sua corsa tra le valli del Trentino è finita nel peggiore dei modi. A comunicare la morte dell'animale alla provincia di Trento con una nota sul suo sito, in cui si spiega che è stato anche catturato uno dei cuccioli, dotato di marca auricolare e poi rimesso in libertà. Così il presidente della provincia, Ugo Rossi. Non è la prima volta che Danica ha avuto un'anestesia, quindi non ci spieghiamo che cosa possa essere successo. Certamente dal punto di vista emotivo questa disgrazia evocherà delle passioni e anche delle critiche. E io però quello che vorrei ribadire è che noi ci siamo mossi in totale aderenza ai protocolli. Danica, 19 anni, era arrivata in Trentino nel 2000 nell'ambito di un progetto di ripopolazione dell'area. Era ricercata dal 15 agosto quando aveva aggredito un cercatore di funghi. La provincia di Trento aveva deciso così di catturarla e confinarla nel recinto del Casteller di Trento, ma non di abbatterla. Una decisione che però aveva scatenato un animato dibattito durante l'estate. Ora insorgono le associazioni animaliste. Di animalicidio parla l'Ente Nazionale Protezione Animali, che chiede le dimissioni del ministro dell'Ambiente Galletti, il quale a sua volta chiede chiarimenti alla provincia di Trento. Ma il Corpo Forestale dello Stato ha già aperto un'inchiesta e in giornata verrà effettuata l'autopsia. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Il neo amministratore delegato di Eni Descalzi è indagato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano su presunte tangenti in Nigeria. 190 milioni di dollari, questa la presunta maxi tangente che secondo la Procura di Milano sarebbe stata versata dall'Eni a politici e burocrati nigeriani. Circa un quinto del valore della concessione petrolifera da oltre un miliardo di dollari ottenuta nel 2011 dal governo di Lagos. L'inchiesta vede indagati per corruzione internazionale il nuovo amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi, all'epoca dei fatti a capo della divisione Oil, l'attuale capo della divisione Esplorazioni Roberto Casula, il predecessore di Descalzi, Paolo Scaroni, e i faccendieri Luigi Bisignani e Gianluca Di Nardo. Su richiesta dei PM milanesi, la Southwark Crown Court di Londra ha sequestrato in via preventiva un intermediario nigeriano un conto inglese da 110 milioni di dollari. 80 su un conto svizzero erano già stati sequestrati nei mesi scorsi dalla magistratura elvetica. Nessuna condotta illecita, ribadisce Leni in una nota, sottolineando di aver stipulato gli accordi unicamente con il governo nigeriano e assicurando la massima collaborazione con la magistratura. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed eccoci con il nostro Dario Ricci, che siamo al secondo giorno della conferenza UEFA sul razzismo a Roma. Innanzitutto Dario, buongiorno. Buongiorno, signore. Allora, io ti chiedo di aspettare un attimo perché siamo già in ritardo sul traffico, sentiamo cosa succede sulle strade e poi parliamo con te. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. La BCE ha chiesto all'Italia un nuovo consolidamento dei conti nel suo bollettino mensile, a rischio, dice, il target del deficit. In vista anche tagli sulla sanità, il presidente delle regioni Chiamparino attacca, se avviene il governo rompe un patto d'onore. Se in Scozia vinceranno i sì, Royal Bank of Scotland cambierà sede. Di un attimo fa la dichiarazione del primo ministro scozzese Alex Salmond, che dice è una sfacciata intimidazione di Londra. Era in fuga da Ferragosto, l'orsa Danica è stata uccisa nel tentativo di cattura, forse a causa del troppo anestetico utilizzato, a polemiche contro la provincia autonoma di Trento. Dario Ricci dunque dal vertice UEFA sul razzismo e contro le discriminazioni che si sta svolgendo a Roma. Eccoci Dario, allora abbiamo sentito, sentiamo tante belle parole da questo punto di vista, ma ci sono anche delle belle storie che stai raccogliendo. Quali? È proprio così, Simone, tanta retorica inevitabilmente perché il tema si presta, ma anche tante storie concrete che arrivano dall'Europa del calcio. Tra l'altro pochi istanti fa è salito in cattedra Clarence Seedorf, che insomma, se come allenatore avrà le sue discutibili idee, come campione di calcio che è stato e come paladino della lotta contro il razzismo certo non si discute. Seedorf ha proposto dal palco qui di Roma un protocollo prima e dopo la gara che sia stabilito e comune da tutte le federazioni per trasmettere i valori positivi, i valori dell'integrazione nel calcio europeo. Chissà che questa idea non approdi sui campi europei. E poi tante storie, dicevamo, ve ne cito alcune. In Romania un'associazione che ha sviluppato attraverso il calcio un progetto di integrazione con i bambini rom, la federazione olandese, la Federcalcio olandese, che ha creato una struttura per contrastare l'omofobia e di supporto per i giocatori gay e lesbiche che decidono di fare coming out. E poi tanti progetti di integrazione delle donne. Come ha detto Michel Platini ieri, il presidente UEFA, è finito il tempo del calcio bianco e macista. Anche sotto questo punto di vista l'Europa sta davvero cambiando. Grazie al nostro Dario Ricci e saluto Gianandrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa e che collabora anche con il Sole 24 Ore. Gagliani, bentornato. Ciao Gianandrea. Ciao, grazie, buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, naturalmente ti abbiamo convocato, per così dire, per parlare di quello che ha detto ieri il presidente americano Barack Obama. Ha detto, insomma, si sta preparando l'attacco all'ISIS tra Iraq e Siria, li distruggeremo, promette che non ci saranno truppe di terra. È proprio su questo che, come dire, volevo una tua opinione. Ti sembra possibile che un'operazione di queste dimensioni e contro una forza ormai grande come quella dell'ISIS possa venire solo da cielo? Beh, vuol dire Obama che non ci saranno truppe di terra americane, noi possiamo aggiungere, dopo il vertice della NATO in Galles, neppure degli altri paesi della NATO, quindi europee. Nessuno riesce, nessuna leadership occidentale oggi forse riuscirebbe a giustificare altri caduti in quell'angolo del mondo. Resta il problema che lo Stato islamico, come si chiama oggi, è divenuto tale perché ha occupato ampi territori della Siria e dell'Iraq e riconquistarli solo facendo combattere sul terreno le truppe locali, quelle irachene che si sono sciolte come la neve al sole durante l'offensiva dell'estate appunto da parte delle forze islamiche, quelle curde che sono sì valorose ma sono limitate nei numeri, oppure le truppe di Bashar Assad, le truppe dell'esercito siriano che comunque lo stesso Obama ha detto no, quello comunque non è un nostro alleato. Insomma, la strategia di Obama mi pare faccia acqua se l'obiettivo è vincere in fretta questa guerra. Se invece l'obiettivo è tirarla per le lunghe, beh, questo è il modo migliore. Bombardamenti limitati, forze sul terreno che non riusciranno a riconquistare territori occupati in breve tempo e quindi più che un'operazione di stabilizzazione rischia di prolungare la destabilizzazione, soprattutto pensando all'intervento in Siria dove l'America vuole aiutare i ribelli anti Assad e anti Califfato, ti volevo Gianandrea, perché insomma le principali basi operative, almeno i luoghi da dove è partita l'ISIS, sono esattamente la Siria, insomma, anche se al confine con l'Iraq, e dunque là per l'America si pone un problema ancora maggiore perché il rischio appunto è di aiutare l'esercito di Assad. Ma l'America infatti lo sta già facendo, perché da un paio di settimane gli aerei americani, con le garanzie offerte ad Assad dall'alleato russo, e sorvolano il territorio in mano allo Stato islamico, individuano postazioni che poi l'aviazione di Bashar Assad va a colpire. Quindi di fatto gli americani e le forze di Bashar Assad sono già alleati. Ma dopo la dichiarazione di ieri, nella quale Obama ha detto continueremo ad armare e miglioreremo la preparazione militare e l'armamento dei ribelli moderati, e anche qui, attenzione, moderati, sono comunque ribelli che combattono Bashar Assad e le cui forze oggi sono indispensabili a combattere i jihadisti. E poi le armi fornite ai moderati, ai ribelli siriani moderati, sono poi le stesse, finite poi nelle mani dell'ISIS, dello Stato Islamico, con le quali gli uomini di al-Baghdadi mesi fa hanno conquistato il nord Iraq. L'appoggio agli americani per questa operazione viene dai soliti sauditi ed emirati del Golfo, monarchie sunnite che certo sono ben pronte e che sono quelle che hanno creato e armato lo Stato islamico. Insomma, molta confusione in queste alleanze sicuramente. Grazie a Gianandrea Gagliani, direttore di Analisi Difesa e collaboratore del Sole 24 Ore, per essere stato con noi. Avvocato Claudio Salvagni, bentornato ai nostri microfoni. Legale di Massimo Bossetti, principale sospettato di essere l'omicida di Yara Gambirasio. Salvagni, bentornato. Buongiorno, ecco, buongiorno a voi. Eccoci, avvocato. Voi avete chiesto la scarcerazione ieri. Noi abbiamo chiesto la scarcerazione o in subordine una modifica della custodia cautelare. Come mai? Abbiamo argomentato in un'istanza, direi anche corposa, cercando di ripercorrere tutte le attività sin qui svolte dalla Procura attraverso quella che per noi è una rilettura critica, io l'ho definita così, cioè cercando di veramente comporre il puzzle, o quantomeno esaminare tutti gli elementi del puzzle che sono stati portati dalla Procura della Repubblica e verificarne la loro portata. L'abbiamo fatto perché riteniamo che innanzitutto non ci siano più le esigenze cautelari e quindi o che le stesse possano essere soddisfatte attraverso una misura meno afflittiva del carcere e del carcere in isolamento come nel caso specifico. E cosa altrettanto importante, comunque riteniamo che i gravi indizi di colpevolezza al nostro giudizio tali non sono, insomma, ecco, quindi c'è più di un dubbio che si affaccia a questa inchiesta. Senta, voi avete tra l'altro chiesto un nuovo prelievo del DNA, cioè di fatto non avete chiesto che venisse fatto un nuovo esame con lo stesso DNA prelevato, ma che sostanzialmente immagino dagli indumenti di Iara venga prelevato il nuovo DNA e riconfrontato con quello di Bossetti. Ma desidero sgombrare il campo da questa dubbi, nel senso che in realtà noi, ho visto questa notizia anche sui media, ma noi non abbiamo in questo momento chiesto una ripetizione di questo esame. È un'attività che la difesa si appresterà a richiedere, ma al momento non l'abbiamo ancora fatto. L'istanza che abbiamo depositato ieri è un'istanza unicamente per una modifica della custodia cautelare in carcere. Ma lo farete comunque? Questa attività, adesso non so indicare il termine esatto quando questo verrà avanzato, stiamo a nostra volta attendendo delle risultanze dai nostri genetisti e quindi lo faremo, ma la cosa importante è che chiederemo, come detto, che si proceda a tutta la fase, quindi dalla fase di estrazione, che è sicuramente uno dei momenti più delicati di tutta la procedura, quindi passando poi per la fase di studio ed elaborazione fino a quella di comparazione con il DNA. Cioè, ritenete quindi che quei campioni di DNA, per così dire, possano essere quelli che sono stati prelevati e poi confrontati con quello di Bossetti, possano essere in qualche modo impuri, non precisi? Allora, che siano impuri è un dato oggettivo. Come ho detto tante volte, noi dobbiamo fare, abbiamo fatto fino ad ora un atto di fede nei confronti di questa attività sicuramente svolta con scrupolo e massima competenza dalla procura attraverso i RIS di Parma, però nella dialettica processuale è giusto che l'indagato abbia tutte le garanzie previste da questo codice, e per cui chiederemo che questo venga rifatto nel contraddittorio della difesa, che a sua volta nominerà dei consulenti tecnici specializzati in genetica, e quindi seguirà passo passo l'evolversi di tutte queste attività. È un garantismo che mi sembra dovuto. Grazie Claudio Salvagni, legale di Massimo Bossetti, principale sospettato e arrestato per l'omicidio di Iara Gambirasio. Una notizia appena battuta dalle agenzie, prima di fermarci per una pausa e poi per gli aggiornamenti di borsa, e che arriva da Caserta, dove alcune crepe si sono aperte questa mattina nella struttura ad arco che è l'ingresso dell'ex caserma Pollio, e siamo nell'emiciclo est della Reggia di Caserta, dove tra l'altro hanno sede gli uffici della Scuola Nazionale Amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. La Banca Centrale Europea chiede all'Italia un nuovo consolidamento dei conti, a rischio il target del deficit, bene l'asta di BTP a 3 anni. In vista anche tagli sulla sanità, il presidente delle regioni Chiamparino attacca: se avviene il governo rompe un patto d'onore. Alcune crepe nell'emiciclo est della Reggia di Caserta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. In Scozia vinceranno i sì, Royal Bank of Scotland cambierà sede. Il primo ministro scozzese Alex Salmond parla di sfacciata intimidazione di Londra. Era in fuga da Ferragosto, l'orsa Danitz è stata uccisa nel tentativo di cattura, forse a causa del troppo anestetico utilizzato. La borsa. Borse in diretta. Isabella Tasso, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Meno 0,19% il FTSE MIB, altrettanto il FTSE OSHARE, piuttosto negative anche le altre piazze finanziarie europee, se si fa eccezione per Francoforte, che in lieve guadagno dello 0,01%. A cosa dobbiamo i cali di oggi? Stamattina le borse avevano tentato un rimbalzo, non sono riuscite a mantenere i guadagni, appaiono piuttosto deboli e incerte. Oggi non ci sono dati macroeconomici di rilievo in grado di imprimere una direzione più precisa ai mercati. Diciamo che rimane la cautela in attesa del referendum per l'indipendenza della Scozia in calendario il 18 settembre. Questo da qualche giorno sta congelando le mosse degli investitori. Grazie Isabella Tasso di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, anche per oggi e per l'aggiornamento. In breve i titoli: Mediaset più 1,88%, Tenaris più 1,81%, Moncler più 1,42%, Obibanca più 1,32%, Fiat 1,02%, in fondo al listino Eni meno 1,78%, come sapete c'è l'inchiesta della quale vi abbiamo parlato all'interno di Effetto Giorno, Pirelli meno 1,5%, CNH meno 1,4%, A2A meno 1,28%. Grazie dunque e buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Sta facendo discutere in queste ore a Padova il nuovo regolamento di polizia urbana che deve essere approvato il 29 settembre, se non sbaglio, Alessandra Brunetti, assessore ai servizi sociali del comune, il 29, no? Sì, ci sarà il passaggio, l'approvazione in consiglio comunale e previo passaggio alla commissione consigliare competente, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno, allora fa molto discutere perché è pieno di divieti, cioè addirittura oltre a tutto, cioè il divieto di sedersi per terra. Ma non è pieno di divieti, è una giusta regolamentazione per ridare un po' di decoro, un po' di dignità alla nostra città, che è una città che vuole offrire nuove opportunità, soprattutto di lavoro, di turismo, di cultura. Con la vicinanza a Venezia abbiamo come obiettivo un turismo che non sia mordi e fuggi, ma che possa anche gustare quelle che sono le proposte, le ricchezze culturali della nostra città, la rassegna mostre, la rassegna teatrale. E quindi diciamo questo regolamento va visto in quest'ottica. Qui non sono divieti assurdi, ma anzi divieti molto sentiti dalla cittadinanza. Allora però le dico assessore, quelli che possono suscitare le maggiori perplessità. Allora, quello del sedersi per terra, perché non è che ci si siedono solo chi chiede l'elemosina, ma ci si può sedere chiunque. Poi è vietato mostrarsi in pubblico in abiti che offendono il comune senso del pudore, e chi lo giudica e quanto. Poi è vietato cogliere fiori, salire sugli alberi, strappare foglie e rami, anche solo foglie, danneggiare in qualsiasi modo le piante in aree pubbliche. Ma insomma, salire sugli alberi da ragazzini abbiamo fatti tutti, se non lo fai in un parco cittadino mi sembra normale. Cioè, se lo fa in... certo, no? In un parco cittadino diciamo c'è la modalità e come vengono fatti questi atti e questi gesti: rovinare il verde pubblico, strappare i fiori dalle aiuole, sedersi per terra così come proprio segno di atteggiamento di vita, ecco, mentre si beve. Ma in che senso di atteggiamento di vita, assessore? Guardi, mi scusi. Guardi, il consumo anche di alcolici, o il sedersi fuori dai plateatici, o il sedersi per terra, non è certo il turista che si appoggia un attimino, o il padovano. Abbiamo le panchine, comunque abbiamo dei bar molto belli con il plateatico, con le sedie, i tavolini, quindi è ripristinare un pochino di ordine, un pochino di pulizia, di decoro in una situazione, lo ribadisco, di forte degrado, qual era quella generata da 10 anni della precedente. Le dico, allora, è vietato fare il bucato, anche pulire o riparare veicoli, mobili e utensili in luogo pubblico, cioè non posso lavarmi la macchina davanti a casa? No, Sì, ma guardi, lei deve intenderlo in un contesto, come le dicevo, degradato, e in un contesto magari nelle periferie dove ci sono anche delle forti tensioni sociali. Io penso che ripristinare un po' di ordine, un po' di quieto vivere sia nell'interesse di tutti, di chi fruisce la città come turista, ma di chi ci opera come lavoratore, di chi ci vive, la mamma con il bambino che va al parco, e anche di chi insomma la vive come studente. Ecco, questo è molto importante. Per dirla brutalmente, Brunetti, promettete un'applicazione morbida, per così dire, di tutto questo? Un'applicazione intelligente, come sempre è avvenuto, perché le forze dell'ordine in questo senso e i dipendenti del comune sono persone molto preparate, altamente formate. Non è un provvedimento, come ci vogliono dipingere, fatto con cattiveria, con crudeltà. Ripeto, il comune di Padova ha veramente una spilla al merito, che è quella, l'unico comune del Veneto, in questo senso abbiamo il primato, che investe 2 milioni di euro, per esempio, nella lotta alla povertà e all'emarginazione grave. È un dato molto significativo. Voi dovete leggere questo provvedimento nell'ambito di tutti i provvedimenti adottati dall'attuale amministrazione Bitonci. Allora, grazie Alessandra Brunetti, assessore ai servizi sociali del comune di Padova, ad amministrazione leghista, così come saluto un parlamentare leghista, un deputato della Lega Nord, Emanuele Prataviera. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Abbiamo solo un minuto più o meno per lei, però è stato ideato da lei questo emendamento, approvato in Commissione Lavoro al Senato, per il quale arrivano le cosiddette ferie solidali, cioè il collega potrà cedere i giorni di riposo in più al collega, madre o padre, che ha un figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute. Allora, posto che siamo tutti bravi e buoni ed estremamente solidali, Prataviera, c'è un'idea su come evitare che, diciamo così, che si crei un mercato di queste ferie? Ma l'ipotesi che si crea un mercato è ovviamente un'ipotesi estrema. È chiaro che la volontà è quella buona di creare un'opportunità per chi ha dei problemi ovvi e quindi anche dimostrabili, di dover assistere un figlio, quindi una persona con cui si ha un legame affettivo importante. Io sono padre da pochi mesi e come tanti ascoltatori possono capire qual è il legame che può unire un padre e un figlio, una madre e un figlio, e su queste motivazioni è nata la volontà da parte mia di fare una proposta di legge che poi si è trasformata in un emendamento che a prima firma della senatrice Munerato, che è stato discusso e approvato per fortuna al Senato. E i sistemi sono quelli appunto di controllo, sono quelli appunto della dimostrabilità di avere un'esigenza. È chiaro che in questo paese è fatta la legge, trovata l'inganno, ma ci mancherebbe altro che io, quando ho pensato a importare il modello francese, abbia pensato che si potesse creare un mercato nero. Benissimo, quindi è stato approvato come all'unanimità l'emendamento? Sì, oggi è stato approvato all'unanimità e questa è veramente una soddisfazione enorme, è una vittoria, noi la consideriamo come una vittoria da parte nostra, perché significa che le idee della Lega sono idee positive e che vanno valutate nel merito, quindi ci aspettiamo lo stesso atteggiamento per tutte le altre proposte che abbiamo fatto, anche perché l'importante per noi era creare una breccia. E questo lo abbiamo creato proprio facendo in modo poi di proprio eseguire nella stessa direzione anche per quei lavoratori autonomi che sono di fatto abbandonati da un sistema di welfare se si trovano o direttamente in condizioni di salute difficili e che non permettono a loro di poter lavorare e coniugare sia che abbiano parenti o figli in questa situazione. La ringrazio. Prataviera, dobbiamo chiudere, se no mi uccidono. La ringrazio, grazie Emanuele Prataviera, deputato della Lega Nord. Magari ci torneremo nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, quando approvano il Jobs Act definitivamente. Traffico. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, come sempre a tutta la redazione di Radio 24. Se volete scriverci, già qualcuno lo sta facendo in merito alla vicenda di Padova e dei divieti, effettogiorno@radio24.it. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna naturalmente domani alle 13. Una buona giornata da Simone Spezia.